L'ultima foglia. Molto tempo fa, la città di Firenze dovette affrontare una crisi. La strada di Arsfield stava perdendo la fiducia nella sua arte. Pittori e artisti che un tempo avevano smosso lo spirito di queste strade, ora avevano allontanato la testa dai colori. La causa era la povertà. L'arte era amata da tutti, ma gli artisti e i pittori erano pagati molto poco. Lentamente le strade persero la loro lucentezza. I genitori levarono i colori ai loro figli. I pittori cominciarono a fare lavori diversi nel loro quartiere per guadagnarsi da vivere. In tempi così difficili, solo pochi artisti non abbandonarono l'arte e continuarono a fare ciò che amavano. Due di questi coraggiosi artisti erano Sue e Jonesy. Sue e Jonesy non erano solo grandi pittrici, ma erano migliori amiche. Dipingevano quadri e li vendevano alle riviste. Non guadagnavano molto, ma erano felici di seguire la loro passione. Tra le due, Sue era una donna forte e pratica. Lavorava sodo e affrontava ogni problema con grazia, mentre Jonesy era sempre spaventata per il futuro. Sue e Jonesy avevano un vicino di casa, il signor Berman. Ora, il signor Berman era un vecchio, ma era pieno di vita. Dipingeva qualsiasi cosa vedeva. Le panchine lungo la strada, i gradini del suo palazzo, persino gli alberi. Era tra i rari pittori che cercavano di mantenere vivo lo spirito di Arsfield. Essendo egli stesso un pittore, il signor Berman spesso aiutava Sue con il suo lavoro. «È qui? Se metti un po' di ombra dietro questo oggetto, sembrerà quasi reale!» «Oh, signor Berman, sei un pittore di talento! Devi mettere i tuoi quadri in vendita!» «Non lo so! Cosa farei con i soldi? Vivo da solo e spendo pochissimo! Le persone in questa città devono capire che non tutto deve essere fatto per soldi! Non devi mai smettere di fare ciò che ami davvero!» Tutto andava bene, fino a un giorno. Jonesy si ammalò gravemente e non importa cosa facesse il dottore, Jonesy non si riprendeva. «Starà bene, giusto?» «Gli ho prescritto delle medicine da prendere, ma Sue, devi convincerla a rimanere positiva!» «La maggior parte dei nostri problemi e malattie arrivano a causa dei nostri pensieri negativi. Lei si riprenderà solo se lei vorrà riprendersi!» Sue provò di tutto per rendere Jonesy felice. Cucinava i suoi cibi preferiti, raccontava barzellette e portava fiori per mantenere la sua stanza fresca. Ma non funzionava. «Non credo che migliorerò mai, Sue. Mi fa davvero male che devi lavorare così duramente, mentre io me ne sto sdraiata.» «Jonesy, sei mia amica. Farei tutto il possibile per prendermi cura di te.» «Ciao, ragazze. Vi disturbo?» «Oh, ciao, signor Berman.» «Come sta la nostra piccola Jonesy?» «Provando.» «Oh, Jonesy, starei meglio. Abbi fede.» «Non mi sento molto bene, signor Berman. Sono stanca di essere debole.» «Oh, bambina, la tua debolezza è nella tua mente!» «Sì, Sue mi ha detto cosa le hai detto. Beh, c'è un modo, c'è volontà o qualcosa.» «E dove c'è volontà, c'è un modo!» «Sono d'accordo. Dimmi, signor Berman, qual è il tuo ultimo dipinto?» «Oh, rappresenta il mio sogno perduto da tempo. Ho dipinto questa stessa strada in cui viviamo. Ho cercato di rappresentare i pittori e gli artisti tutti fuori per le strade, facendo l'unica cosa che amano di più: dipingere.» «È un sogno impossibile da realizzare. Non succederà mai.» «Bene, questo è il bello. Puoi sognare qualsiasi cosa. Se non sogni, non proverai mai a renderli reali. Sono certo che la mia arte salverà delle vite un giorno. Ho la volontà di trovare un modo. L'arte è molto potente, figlia mia. Un potente pezzo d'arte può fare ciò che i medici non possono. Tutto ciò che un artista deve fare è rimanere positivo e avere fede. Dai, Johnsy, smettila di essere così triste. Cosa stai guardando, Johnsy? La pianta di edera che cresce su quel muro. È l'unica cosa che mi rende un po' felice. Non è una cosa buona? Lo è, ma anche la pianta mi sta lasciando. Quando l'ho vista per la prima volta aveva 10 foglie, ora ne ha solo 7. Perderò ogni speranza quando l'ultima foglia cadrà. Oh! È una cosa terribile da dire, Johnsy! Non urlare contro di lei, Sue. Quando qualcuno è triste, le urla lo turbano anche di più. E Johnsy è malata. Non sappiamo come deve sentirsi in questo momento. Hai ragione, signor Berman. Mi dispiace, Johnsy. A Johnsy non importava. Si sentiva in colpa per la sua amica. Passarono altri giorni e la salute di Johnsy peggiorò. Il dottore non poteva fare nulla perché Johnsy aveva smesso di prendere le sue medicine. Sue continuava a chiedere al dottore un trattamento alternativo e tutto quello che lui diceva era: lei deve renderla più forte. Una volta, mentre Sue entrava nel suo palazzo, passò davanti al signor Berman. Era fradicio. Signor Berman, stai bene? Cos'è successo? Niente, bambina. Sto invecchiando. Questo è tutto. Oggi ho dipinto le panchine nel nostro parco. Sai quelle sotto il tetto? Aspetta, stai parlando delle panchine sotto il tetto del parco? Ce ne sono almeno una ventina. Le hai dipinte tutte? In un giorno? Questo è troppo lavoro. E come mai sei bagnato? Sono tutte sotto il tetto. Ho dimenticato di portare il mio ombrello, vedi? Come ho detto, sto invecchiando, tutto qui. Oh, signor Berman, sai che tutti si stanno ammalando in questi giorni. Devi prenderti cura di te stesso. Hai la febbre? Non sembri star bene. Dovrei chiamare un medico? Oh, no. Fai troppe domande, bambina mia. Quando dipingo, sono l'uomo più felice di questo mondo. Niente può ferirmi o disturbarmi. L'arte è la mia vita. Dimmi, come sta Johnsy? Non benissimo. Ricordi la pianta di edera di cui parlava? Sono rimaste solo 4 foglie. Lei continua a fissare la pianta. Spero che l'ultima foglia non cada, signor Berman. Lo spero davvero. Johnsy perderà ogni speranza. No, non possiamo permettere che ciò accada. Oggi piove a catinelle. Sono certa che il vento soffierà via tutte le foglie. Come può qualcuno impedire alla pianta di perdere la sua ultima foglia? Sue, dove c'è volontà, c'è un modo. In questo momento non vedo alcun modo e sto perdendo la mia volontà. Andrò da Johnsy. Signor Berman, per favore, vai da un dottore, ok? Lo farò, figlia mia. Porta i miei saluti a Johnsy. Quella notte una tempesta di grandine colpì la città. Tutti nella via di Hartsfield chiusero le finestre e si accoccolarono nelle loro case. Ma Johnsy voleva che Sue aprisse la finestra. Voleva vedere se l'ultima foglia era caduta. Ma Sue si rifiutò. La salute di Johnsy avrebbe potuto peggiorare se avesse aperto la finestra, lasciando entrare il vento. Johnsy fu d'accordo. Non sapeva che anche Sue era preoccupata per l'ultima foglia. Il mattino seguente, Il sole splendeva brillantemente. La tempesta di grandine era passata. Su sapeva che doveva aprire le finestre. Per quanto tempo poteva tenerli chiusi? Chiuse gli occhi e aprì le tende. Che sorpresa! Ah, Jansi! L'ultima foglia è ancora lì! Cosa? Non può essere! Come ha fatto a resistere? È la volontà della foglia, Jansi, proprio come ha detto il signor Berman. Hai ragione. Ah, su! Prendimi le mie medicine. Se una fogliolina può sfidare una tempesta, perché non posso farlo io? Troverò un modo per recuperare. Oh, Jansi, prenderò tutto ciò che vuoi. Dimmi, di che cosa hai bisogno? L'arte è molto potente, figlia mia. Una potente opera d'arte può fare ciò che i medici non possono. So cosa voglio. Prendimi la mia tela e alcuni colori. La felicità di Su non conosceva limiti. Si precipitò e portò tutti i colori che aveva. Sistemò la tela sul letto di Jansi. Su era felice di riavere la sua amica. Col passare del tempo, Jansi si riprese completamente. Il dottore e Su ne furono entrambi sorpresi. Non parlò più di quanto si sentisse debole o di ciò che non poteva fare nella vita. In effetti, ora parlava dei suoi nuovi sogni con Su. «Voglio dipingere il London Bridge!» «Sono sicura che un giorno lo farai!» «Dov'è il signor Berman, Su? Non lo vedo da così tanto tempo!» Sono contenta che tu lo abbia chiesto, Jansi. Volevo dirtelo una volta che ti saresti completamente ripresa. Il signor Berman non stava bene. La vecchiaia era arrivata. Ricordi la notte della tempesta di grandine? Era molto ammalato quella stessa mattina. Cosa? Andò dal dottore, giusto? Questo fu il problema. Ricordo che mi disse che quando dipingeva nessuno poteva ferirlo. Cosa intendi? Guarda l'ultima foglia sul muro, Jansi. È ancora lì. Non si è mossa neanche un po'. L'ha dipinta quella notte. Era veramente un grande pittore. Al mattino iniziò a tremare. Le persone lo portarono in ospedale. L'ho incontrato un giorno fa. Era così felice. Era in pace quando gli ho detto che ti eri ripresa. Gli dissi che l'ultima foglia della pianta di edera ti aveva dato la forza. È morto, Jansi. No! Oh no! Ma Jansi, l'hai aiutato a realizzare il suo sogno. Non ha detto una volta che la sua arte avrebbe salvato delle vite un giorno? Guarda quell'ultima foglia. Questa è la sua arte e ti ha salvato la vita. No, Su. Non è solo arte. Questo è un capolavoro e io realizzerò il suo sogno. Presto, la storia dell'ultima foglia e del signor Berman si diffuse in tutta la città. Pittori, poeti, ballerini, cantanti, tutti gli artisti ne furono ispirati. Si riunirono tutti sotto la pianta di edera e giurarono di riportare l'arte in via Artsville. E questo è quello che successe. Le strade tornarono di nuovo in vita, c'erano dipinti su ogni muro e anche su alcune persone. Jansi e Su raccolsero i loro risparmi e iniziarono ad insegnare pittura sotto il nome di L'arte di Berman. I genitori mandavano i loro piccoli a imparare lo spirito della vita lì. Tutti ripresero la loro pittura. Non smisero di fare lavori strani, ma iniziarono ad apprezzare i loro lavori ora che sapevano che non avrebbero mai più smesso di dipingere. E per quanto riguarda Jansi e Su, beh, le persone della strada di Artsville erano sollevate di riavere i colori nelle loro vite. Tutti capirono quanto fosse importante l'arte e si fecero avanti per donare una parte dei loro guadagni all'arte di Berman. E presto l'arte di Berman crebbe e divenne l'Istituto Berman. Ciò che è più interessante è che ad ogni bambino dell'Istituto Berman veniva insegnato a dipingere una cosa prima di ogni altra. L'ultima foglia.